un'immagine diversa dalla realtà per attirare attenzione e fingere interesse per cose che ritengo poco importanti. Sorridere e andare avanti fra persone brillanti mentre i miei sogni si realizzano a fatica. Stare qui a volte è irritante come un'ortica. Porta il coraggio, devi apparire sicuro, devi essere spigliato per avere un futuro. Io sicuro e spigliato non lo sono mai stato, fin dal primo giorno di scuola sempre etichettato. Ti ho dato preoccupazione a chi mi voleva inquadrato e integrato fra la massa, non lo sono mai stato. Anzi, col tempo sono pure peggiorato e tu non hai mai capito dove hai sbagliato. Sei troppo timido, parli poco, sei riservato, devi essere come gli altri, sei viziato. Io non voglio una vita d'esteriorità, non ho mai cercato notorietà, non riesco a fingere motivazione in ogni disgustosa, fottuta situazione. Non riesco ad apparire solare, non riesco a dire che va bene quando va male, non ho spirito di adattabilità, odio quando pretendete flessibilità. Unica certezza, non riesco a nascondere la mia debolezza. Mia debolezza non mi ha mai lasciato, sono insicuro come chi all'esame bocciato. Non ho coppe, trofei o medaglie da mostrare, ho attacchi di panico da nascondere e far passare. Non ho mai vinto una competizione, nessuno mi ha mai detto sei un campione. Devi essere come gli altri e reagire, tirar fuori le palle e aggredire. Ma io parlo piano e odio le aggressioni, odio i bulli, chi fa mobbing e provoca depressioni. Odio i vostri problemi, l'ansia da prestazione, odio la società e la competizione. Non sono simpatico, di sera non prendo l'aperitivo, non sono né un figo né uno schiavo competitivo. Devi sembrare pieno di grana, che si legga bene sulla maglia Dolce Gabbana. Io non ho quello che voi chiamate stile, non sono cresciuto, sempre un po' infantile. Non sono mai stato giovane, nato già vecchio, scappo se mi vedo nello specchio. Io le divise non le ho mai messe, eccezioni per me non sono mai permesse. Ho il mal di stomaco che mi tormenta, il disagio ormai non mi spaventa. Unica sicurezza, in futuro ci sarà ancora la mia debolezza. Non sempre mi alzo col sorriso sul viso, a volte mi spengo senza preavviso, diviso fra rabbia e scatto, spesso deriso, sbaglio sempre perché sono un po' impreciso. Non mi sento sempre in paradiso e non mi stanno bene le regole che per me tu hai deciso. Ripeti che sei infelice, ripeti democrazia, ripeti che da qua non te ne andrai mai via. A me va stretta la società e come l'avete organizzata, timbrare il cartellino felice di una vita stressata, fregare gli altri solo per fare carriera. I vostri uffici sembrano sempre più una galera. Mi manca l'aria col vostro regolamento, mi sento soffocare nel vostro cemento. Sei troppo chiusi, sei una persona triste, sei uno che alla prima difficoltà desiste. Io non ho più maschere da cambiare, pazienza se non mi volete accettare. Amo la notte come i vampiri, non ho bisogno di droghe per essere su di giri. Sono fuori moda e ne sono fiero, come sangue misto nella mia nazione mi sento straniero. Non canto l'inno nazionale, non passo il weekend al centro commerciale. E tu non sarai mai all'altezza di tutta la mia grande debolezza. E a volte quando viene sera mi sento un po' solo, il silenzio mi spaventa e non mi consolo. La gente fa inviti ma io non mi arruolo, non sono simpatico come Fabio Volo. Alla TV intanto un promoter mancato dice che andrà tutto bene perché ormai il peggio è passato. Devi essere ottimista, pensare positivo, se lo vuoi veramente realizzi ogni obiettivo. Ma io non ho la mentalità da imprenditore, manca il fiato e ho il batticuore, quindi lascio per un po' l'acceleratore. Sono stufo di fare il venditore, sono stufo di fare l'attore, sono stufo di dire che è meraviglioso questo orrore. È una mela marcia, sei fatto male, con te non c'è speranza, sei da buttare. Sì, lo ammetto, sono un po' chiuso, mi spiace di avervi deluso. Sono difettoso, non sono produttivo, al traguardo spesso manco ci arrivo. Non sono molto espansivo, a volte sono un po' eccessivo, ma ho umiltà e non arroganza, però so a chi e a cosa dare importanza. E questa è per chi perde, per chi si sente perso solo, per chi arriva sempre ultimo, per chi rimane indietro, per tutti i diversi, gli esclusi, i difettosi, gli esuberi, le mele marce, i licenziati, i bocciati, gli invisibili, per quelli dimenticati, per quelli non produttivi, per quelli che non ce la fanno, per tutti quelli che non sono clienti, non sono dipendenti, non sono risorse umane ma persone, per chi non va alla velocità degli altri, per chi ha deciso di non nascondere più le proprie debolezze, la debolezza come forza, la debolezza come orgoglio,